miei peccati era lì, soffrendo e pensando alla mia vita, mentre tutti ridevano di lui. Era lì, quando il sangue scendeva dalla sua fronte, era lì, mentre il sangue di Abele gridava vendetta, il suo sangue grida amore. Gesù era lì che soffriva con amore, era lì, non pensava al suo dolore. Gesù era lì con lo sguardo verso il cielo. Era lì, Padre mio, perdona loro perché non sanno quel che si fanno. Era lì, nell'ultimo istante della sua vita, era lì, una sola espressione uscì dal suo cuore. Padre mio, tutto è compiuto. Gesù è